siamo al telefono con Chris degli Ho Fame. E intanto grazie mille Chris per essere qui con noi e della tua disponibilità. Grazie mille a voi, è un piacere. Allora, domani, che è il 7 dicembre, martedì 7 dicembre, esce Vita Condivisa, il nuovo album degli Ho Fame, della band, quindi. E che aspettative hai rispetto a questo nuovo album? Ma spero tanto di girare il più possibile. Alla fine, quando esce un disco, spero che interessi le persone, ma spero anche di girare molto per concerti, suonando in giro, che è la cosa che mi affascina maggiormente. Avete in programma già delle date? Allora, durante il lockdown si usavano molto anche i live, come si dice, online, così avete già in mente qualcosa per promuovere l'album? Noi abbiamo già dei concerti organizzati, noi iniziamo il tour in primavera 2022. Ok, quindi poi pian piano scopriremo bene anche quali sono. Avete in programma anche Bologna? Così sappiamo subito. Allora sì, andiamo, facciamo una prima data acustica, quindi non con tutta la band, da all'Ortica, che è un posto in centro Bologna, enoteca. Che ogni tanto fa anche dei piccoli concerti di presentazione. Io vado proprio a presentare il disco prima, in anteprima, quindi io e un chitarrista che mi accompagna presentiamo il disco all'Ortica a Bologna, poi faremo una data più avanti con tutta la band. Ok, fantastico, quindi questo già iniziamo a mettercelo in agenda. E a proposito di questo nuovo album, appunto Vita Condivisa, quali sono le novità dal punto di vista musicale e magari volendo anche di contenuti rispetto a quello che raccontate? Ma questo è il nostro quarto disco. Questo nuovo disco abbiamo allargato la formazione, è entrato con noi Sacro Bosco, che è un ragazzo che suona musica elettronica EDM ed si è unito a noi alla chitarra elettrica. Il disco è stato concepito durante il lockdown, quindi io ero chiuso in casa, i brani nascono da me e ho cercato di tramutare le energie di quel momento in un nuovo lavoro musicale. Quindi è un disco positivo, che cerca di vedere le cose sempre dal verso giusto, insomma. E dal punto di vista musicale, rispetto ai lavori precedenti, soprattutto rispetto ad Un Istante, è un disco più rock. Nella formazione completa siamo in 5, quindi 2 chitarre elettriche, un basso, una batteria e 2 voci. Quindi dal vivo siamo diventati un po' più potenti rispetto alle esibizioni precedenti. È stato concepito, hai detto, nel 2020, quindi nell'anno del Covid, perché ormai sarà definito così. Durante il lockdown proprio. Cosa del lockdown, quindi del Covid e tutto quanto, c'è dentro l'album? Cosa di quello che è successo ha influenzato le nove tracce dell'album? Beh, direi tantissimo tutto, perché proprio i brani sono nati in questi mesi di isolamento. Io per fortuna condivido la casa e la vita con la mia famiglia, ho una moglie, Camilla, che suona con me, che canta con Ho Fame, e 2 figli piccoli. Però durante il lockdown i mesi, io poi vivo vicino a Codogno, che è la zona da cui è nato tutto. Noi, a dire la verità, eravamo in tour in Germania, il 7 marzo siamo tornati e appena tornati l'8 marzo hanno chiuso tutto. Comunque tutto è legato a quel periodo, quindi le tantissime ore a disposizione le ho tramutate nell'attenzione alla famiglia, ai bambini, e ho cercato di condividere e di concentrarmi sulle passioni che ho. Una di queste è la musica, quindi ho detto va bene, concentriamoci sul nuovo disco di Ho Fame e facciamolo. E andiamo oltre un po' a sto periodo pessimo. Allora, in queste 9 tracce ci sono anche un po' delle storie, dei protagonisti. Cioè, chiaramente c'è molto di autobiografico, possiamo dire, da parte tua, ma ci sono un po' delle storie che possono essere di tutti. Ecco, che storie racconta quest'album? Ma io amo raccontare le storie semplici che riguardano un po' tutti. Quindi un punto di vista che sì, mio, che scrivo le canzoni e interpreto la mia musica. Però soprattutto anche i testi, sono testi che penso possono abbracciare la vita di chiunque, perché quando si parla di amore, quando si parla di giornate, di incontri, di come può cambiare la vita all'improvviso, questi sono temi che riguardano un po' tutti. Dicevamo, l'album esce domani, Vita Condivisa degli Ho Fame, quindi esce domani 7 dicembre 2021 ed è stato anticipato da 2 singoli, Non Chiedere Mai e Siamo figli liberi. Quindi per chiudere questa intervista ti chiedo, quale dei due singoli mettiamo per salutarci e magari perché? Allora, questi sono due singoli a cui sono molto molto legato. Siamo figli liberi è un inno alla vita semplice, quindi a rinnegare un po' queste l'abuso di immagini che c'è ultimamente legato ai social e a cercare nella vita semplice, nelle persone che ti circondano, nella campagna, all'aria aperta, la risposta a tante domande. E non chiedere mai è anche questo un inno a non esagerare nelle richieste verso la vita e concentrarsi sulle cose semplici che abbiamo a disposizione. Io finirei con Non chiedere mai, perché è un brano che mi ha stravolto durante la scrittura. Fantastico, perfetto. Allora ci ascoltiamo Non chiedere mai, che è tra l'altro la prima traccia di Vita condivisa degli Ho fame. Grazie mille per essere stato qui con noi e ci vediamo in primavera, come ci hai annunciato. Beh, molto volentieri. Poi all'Ortica fanno anche degli ottimi vini, quindi possiamo condividere le passioni, la musica e i vini. Perfetto, grazie mille Chris e a presto. Grazie a voi, buona serata.